Qui a Ciampino la situazione sostanzialmente è rimasta invariata nel corso di questi ultimi anni. E ultimamente, ecco, le novità sono state dettate dall'agenda politica ciampinese, in quanto a breve si terranno anche qui le elezioni amministrative e c'è stata la calata del PDS a sostenere la propria candidata, che è Anna Rita Contestabile, che attualmente è una consigliera dell'opposizione a Ciampino, e la Polverini ha sparato grosso dicendo che ha sentito il ministro Matteoli per telefono e gli ha garantito che Ciampino chiuderà e invece aprirà lo scalo di Viterbo. E quindi la questione aeroporto di Ciampino, che era stata totalmente, diciamo, trascurata in questa campagna elettorale, che è già aperta da diversi mesi qui sul territorio, è tornata, insomma, in auge a livello mediatico. E mentre, appunto, noi come Assemblea Permanente No Fly in questa settimana abbiamo fatto uscire un dossier informativo di 4 pagine che spiegava, appunto, i dati, dai dati di volo ai dati sanitari che sono stati pubblicati qualche tempo fa, e dicevamo, appunto, che dalle notizie che erano ufficiali l'aeroporto di Viterbo non si fa assolutamente più, perché non c'è un progetto, non ci sono i finanziamenti e devono prima costruire le altre infrastrutture, eccetera, eccetera. Quindi era uscito, diciamo, nella Tuscia continuano a uscire articoli e comunicati sia di maggioranza che di opposizione, che di altre associazioni, in cui mettono in evidenza che sostanzialmente questo terzo scalo, che era stato, diciamo, programmato dall'allora presidente della regione Marrazzo con l'allora ministro Bianchi, scusate, per i trasporti, nel 2007, che doveva vedere il primo volo già nel 2010, e siamo nel 2011, e fortunatamente per gli abitanti della Tuscia questo scalo non è minimamente in progettazione, solo che sono uscite delle, appunto, delle sparate da parte della Polverini, che hanno riaperto questo fronte, e insomma stanno sul TG regionale, hanno detto che faranno partire non si sa quando la valutazione di impatto ambientale. Quindi, cioè, voi sapete benissimo che prima di fare un'opera si fa una valutazione di impatto ambientale, quindi può essere anche negativa la valutazione di impatto ambientale. E sostanzialmente la situazione a 4 anni da questo annuncio dello scalo di Viterbo è totalmente invariata, sia per noi a Ciampino sia per i viterbesi.